La verità è questa, che se non fosse per la grazia di Dio nessuno di noi sarebbe qui, è vero? E se non fosse per la grazia di Dio non potremmo neanche nominarlo Dio, non potremmo approcciarci a Lui. Lui è santo e perfetto, ma per la sua grazia noi siamo perdonati e siamo accolti alla sua presenza, e addirittura Lui ci chiama santi, non perché lo siamo, perché siamo perfetti in ogni cosa e non manchiamo mai di fare errori, ma perché Lui ci santifica, e quindi siamo santi in virtù della santificazione che otteniamo da Lui, che sempre ci perdona e sempre ci giustifica mediante il suo sangue. Non è una bella notizia? La nostra chiesa si chiama Bella Notizia, lo sapevate? Pieno Vangelo significa il Vangelo significa buona notizia. Noi viviamo nella pienezza della buona notizia. Se ci sono brutte notizie in questo mondo, e quante ce ne sono, noi abbiamo un luogo sicuro nel quale tornare ogni domenica e ricordarci che noi viviamo per una buona notizia, che poi si ramifica in migliaia e migliaia di altre buone notizie, è vero? La più grande è che siamo accolti per grazia, e poi da lì tante ramificazioni diverse, tante benedizioni. Siete contenti come me? No, perché il vostro sguardo è un po' serio. Siete contenti che c'è una buona notizia stamattina, che viviamo nella buona notizia? Alleluia, c'è speranza per noi. E il mondo può andare a rotoli e può avere milioni di cattive notizie. Queste cattive notizie non metteranno mai ombra sulla più gloriosa e più bella delle notizie. Anzi, ogni cattiva notizia che ascoltiamo rende ancora più speciale, più importante la buona notizia nella quale viviamo, che Gesù ci ama, che Lui tornerà e che Lui stabilirà il suo regno eterno, e noi vivremo nella gioia più completa. C'è un lieto fine amen. Per noi, amen? Amen. Io stasera, vedete come sto, stamattina voglio parlare di lieto fine. Abbiamo un lieto fine, però non vi vedo proprio in sintonia, cioè siete contenti di essere qui o non volevate venire stamattina? Cioè qualcuno vi ha costretto a venire? Siete venuti liberamente? O tua moglie, tuo marito, devi venire per forza, se no litighiamo. Siamo qui tutti di liberi, di iniziativa propria, volontà, desiderosi di essere qui? Sì, lo vedo. Bene, siamo contenti di essere qui allora. E ricordiamolo, salutiamo qualcuno attorno a noi e ricordiamolo, vivi di una buona notizia, oppure dirgli Dio ti ama e io ti voglio bene. Puoi dirlo al tuo vicino. Dio ti ama e io ti voglio bene. Che bello, non mi diventate silenziosi, continuate a riessere chiassosi. Siamo una chiesa viva, pentecostale, amen. Siamo vivi, amiamo il Signore, amen. Siamo felici di essere qui, saremo rumorosi, dite amen ogni tanto, così, anche se non dico una cosa giusta, voi dite amen, tanto poi il Signore corregge tutto, va bene? Amen. Amen, ci piace dire amen, è vero, è una parola facile da dire e significa così è, così sia, e lo dichiari per la tua vita. Quando senti una verità e dici amen, tu anche afferri quella verità e dico io afferro questa verità e sarà vera per la mia vita, amen, amen. Quindi noi abbiamo un lieto fine, lo dico di nuovo, noi abbiamo un lieto fine, amen, io l'afferro questa verità, abbiamo un lieto fine. Amen, abbiamo un lieto fine, viviamo per un lieto fine, la terra promessa è davanti a noi e noi la conquisteremo, amen, amen, amen. Vi vedo cariche. Ruth, capitolo 4, siete con me, siamo al finale di questo libro e come ho anticipato, non smetterò di dirlo, questo è un lieto fine. Vi ricordate le fiabe come finiscono? E vissero tutti felici e contenti, e ci piacciono le fiabe, no? E vissero tutti felici e contenti. Quello che andremo a leggere è proprio così, cioè proprio il finale è: e vissero tutti felici e contenti. È bellissimo questo. Dio vuole la nostra felicità. Lui vuole che l'esito delle nostre vite sia un esito, un epilogo meraviglioso, un lieto fine lui vuole per me e per te. Ed è per questo che lui è venuto ed è morto su quella croce. Non mi stancherò mai di dirlo, perché magari qualcuno non ha ancora afferrato l'Evangelo. E allora questa mattina non do per scontato che tutti abbiamo afferrato l'Evangelo. Se non l'hai afferrato ancora l'Evangelo, non è complesso, è molto semplice. Noi siamo peccatori, noi non siamo degni di Dio, un giorno moriremo e quando moriremo ci sarà un bivio. Chi avrà potuto afferrare la relazione con Dio vivrà in eterna relazione con Dio. Chi non ha afferrato la relazione con Dio vivrà in eterno separato da Dio. Dio è buono, la distanza da Dio è male. Dove c'è Dio c'è delizia, c'è bontà, c'è ogni cosa buona. Lontani da Dio c'è guerra, c'è disordine, c'è ingiustizia, c'è malattia, c'è tutto ciò che conosciamo in questa terra, perché questa terra è lontana da Dio. E allora la buona notizia qual è? Che sebbene tu non meriti di stare alla presenza di Dio, perché sei peccatore come me, Gesù è venuto per dare una via, che via non era, che via non c'era. Lui ha pagato il prezzo di riscatto per le nostre vite, affinché noi potessimo godere in questa terra e per la vita eterna la relazione con Dio. Su questa terra noi pregustiamo quella che sarà l'eternità. Abbiamo degli assaggi, degli antipasti di quella che è la presenza completa di Dio. Quando saremo con Dio per l'eternità, noi non conosceremo più il male. Noi saremo separati dal male. Non ci sarà più guerra. Vi piace? Vi piace? In un mondo di guerre e di ingiustizie, di cattive notizie e di pedofili e di persone che fanno violenza e di ingiustizie che non si possono sopportare, noi un giorno non sapremo più nulla di questo, perché non ci sarà più, sarà annientato. Vivremo nella gioia, nella pace, nell'armonia, nella grazia, nella salute, nella presenza di Dio completa. Capite la buona notizia qual è? Ed è per tutti, dobbiamo testimoniarla questa buona notizia, perché ogni persona che afferra l'Evangelo vivrà per l'eternità con Dio. E chi non afferra l'Evangelo, ahimè, avrà fatto la sua scelta di vivere separato da Dio, e il male che oggi vive sarà moltiplicato all'ennesima potenza nell'eternità. E allora non possiamo permetterlo. Quindi predichiamo l'Evangelo. Predichiamo il riscatto. Ruth è una storia di riscatto. Io ho perso già il fiato. Fatemi recuperare il fiato. L'ho detto tutto di un fiato, l'Evangelo di Gesù. L'ho detto tutto di un fiato. Ora, quello che andiamo a leggere è davvero un lieto fine, però per comprendere un attimino dove ci troviamo, non posso ora riprendere tutti i capitoli. Del resto non lo vorreste neanche voi, perché volete andare a un certo punto a pranzare a casa. Quindi andate a rivedere i video, se avete la possibilità, su YouTube ci sono tutti i video. Però quello che è importante dire è che nel capitolo 3, il capitolo precedente, noi ci siamo trovati davanti a quella che è la scena romantica di Ruth, che fondamentalmente sta dando l'occasione a Boaz di diventare il suo parente di riscatto. Che cosa gli sta dicendo? Tu puoi riscattare la mia vita, tu mi puoi togliere dalla condizione in cui mi trovo, e gli sta dicendo esplicitamente: tu puoi diventare mio marito. E questa cosa Boaz l'accoglie con entusiasmo e con gioia, si sente onorato, non aveva considerato questa possibilità, forse si era autoescluso. E questa proposta di Ruth in questo contesto romantico è una delle scene più belle del libro, però ahimè, colpo di scena. C'è un altro, lo leggiamo, c'è proprio scritto così, versetto 12 del capitolo 3, dice: è vero, è Boaz che parla e dice: è vero che io ho il diritto di riscatto, ma ce n'è un altro che ti è parente più prossimo di me. In amore non c'è cosa peggiore che quando c'è un altro, è vero? Peggio ancora se quell'altro che c'è è lecito. Non è una relazione illecita, non è qualcosa che non dovrebbe esserci, è sbagliato se ci fosse. No, si tratta di un altro, in questo caso, nel caso di Ruth, che è lecito, anzi che ha la precedenza su Boaz. E quindi Boaz si rende conto che tutto è bello, tutto è meraviglioso, sì, voglio essere tuo marito, ma c'è un altro. E io mi chiedo, quando nella nostra vita noi ci troviamo davanti a fuori programmi, delle cose che vanno fuori da quello che noi abbiamo pianificato, come viviamo il tutto? Come vediamo la guida di Dio? Perché Boaz ci dà un meraviglioso esempio di come essere guidati da Dio anche quando ci sono dei fuori programma. Boaz ci dimostra come è possibile continuare a perseverare e a credere nella volontà di Dio anche quando le cose non vanno come erano stabilite o come avresti voluto che andassero. E noi a volte pensiamo che la nostra vita, nella volontà di Dio, deve sempre filare liscio. Tutto deve andare bene, perché abbiamo Dio, no? E allora pensiamo, non ci possono essere fuori programma, non ci possono essere ostacoli, non ci può essere la montagna che si affaccia e si mette davanti al mio sentiero. Non è possibile, perché ho Dio. E invece, poi a volte, siamo sorpresi del fatto che anche noi credenti, che godiamo della relazione con Dio, che viviamo nella buona notizia dell'Evangelo, ci troviamo davanti a ostacoli e cose che vanno fuori dai nostri programmi. Come ci comportiamo? Beh, qui viene messa in gioco la nostra integrità. Ed è Boaz che ci dà questo meraviglioso esempio di integrità e di stabilità. Ora, in questo capitolo, capitolo 4, anche se abbiamo osservato la vita di Ruth finora, non potremo osservare Ruth, perché Ruth è solo in attesa. E anche questo forse ci può parlare del fatto che a volte il Signore ci chiama ad attendere, a non fare niente. Ruth ha già fatto tutto quello che doveva fare. In questo capitolo Ruth quasi non è nominata. E vorrei ricordare che anche in tutto il libro, la cosa particolare del libro di Ruth è che anche Dio non è mai nominato. È nominato di striscio nel primo capitolo, quando leggiamo che Dio cambiò la situazione di carestia a Betlemme, e quindi ci fu di nuovo del pane a Betlemme. Questa è l'unica cosa che leggiamo, e in questo capitolo leggiamo solo un appunto, poi lo vedremo, dove Dio interviene. Però in tutto il libro, e questa è una cosa che abbiamo osservato ed è molto importante, in tutto il libro noi non vediamo nominato Dio più di tanto. Lui non parla mai in prima persona, lui non è presente con miracoli, con visioni angeliche, con un intervento miracoloso. Però il bello è che Dio è ovunque, e Dio dietro le quinte sta guidando ogni cosa. E questo ci ricorda il fatto che Dio è all'opera nella nostra vita anche quando non lo vediamo, anche quando non sentiamo la sua voce udibile, anche quando non ci sono apparizioni angeliche, non ci sono parole profetiche, non ci sono visioni o sogni notturni. Dio è all'opera, e questa sicurezza la devi avere. Perché magari senti qualcun altro che il Signore gli parla sempre, no? A volte io sono preoccupato per quelle persone che sentono sempre la voce di Dio, no? Perché a volte credo che c'è anche un'esagerazione nel interpretare qualsiasi cosa come voce di Dio. Però è importante che tu capisci che Dio ti ama, e Lui fa cooperare al bene ogni cosa per coloro che lo amano. Quindi se tu ami il Signore, se tu sei in relazione con Lui, se vivi una vita in integrità e ti stabilisci sotto il suo ombrello, sotto la sua copertura, Lui farà cooperare ogni cosa al bene. Amen. Ci siete ancora? L'afferri questa verità? Puoi dire amen? Ogni cosa coopererà bene nella tua vita. Nel nome di Gesù, se ami il Signore, ogni cosa coopererà al bene nella tua e nella mia vita. Amen. Quindi questo è quello che noi vediamo e afferriamo di questo libro meraviglioso, che Dio magari non si sente, non è nominato così tanto, ma è all'opera ovunque, in ogni singolo dettaglio. E così Lui fa nelle nostre vite. Ora, prima di vedere come Boaz interviene e quello che lui fa, io vorrei considerare con voi quello che Boaz non fa. Perché Boaz qua davanti una scelta. Qui, per la legge di Dio, per i comandamenti di Dio, lui si deve attenere a tutta una serie di cose. Però noi sappiamo anche che Boaz, Ruth, Naomi e tutta la storia è in un contesto storico particolare del popolo di Israele, dove noi leggiamo nei Giudici che ognuno faceva ciò che sembrava giusto ai suoi occhi. Qual era il contesto di Boaz? Che ognuno ignorava la legge di Dio e faceva quello che gli pareva più comodo fare. Seguiva il proprio cuore, seguiva il proprio istinto, andava a naso, no? Ne abbiamo parlato. Boaz qui è davanti alla possibilità di scadere in quel modo di fare che il popolo di Israele sta adottando anche per la sua situazione. E si può sentire giustificato, dire è tutto così bello, Dio ha guidato in una maniera straordinaria il tutto. Ruth è ai miei piedi, ora la prendo, basta, non fa niente, c'è un altro parere, c'è qualcun altro che viene prima, c'è una legge da seguire, non fa niente, ho tante conferme, sono sufficienti. Dio mi perdonerà se violo questa legge. Mi prendo Ruth, la sposo, avrebbe potuto farlo. Avrebbe potuto agire in una maniera illecita e non integra secondo il comandamento di Dio. Quante volte io e tu siamo tentati ad agire in una maniera illecita e non secondo la volontà di Dio? Non sto parlando di ammazzare qualcuno, non sto parlando di andare fuori proprio la legge, le leggi più grandi del codice penale, no. Sto parlando di quelle piccole cose che ci sembrano innocue, però che la parola di Dio condanna. E allora io voglio darci un'istruzione molto chiara, io sarò molto esplicito e spietato questa mattina con voi, nel farvi comprendere che la parola di Dio è molto chiara nel darci la direzione che Dio ha per noi. A volte noi ci perdiamo e non ci rendiamo conto che il nostro smarrimento non ha alcun senso, perché Dio già ha dato delle risposte nella sua parola. E allora qualcuno potrebbe dire, seguite la mia logica, se non dico una bugia, perdo il lavoro. Qual è la volontà di Dio? Non dire le bugie. Io sarò più spietato, sarò meno sensibile, qualcuno non mi vorrà più bene dopo questo sermone. La volontà di Dio è che tu perda il lavoro. Se non copio, non supererò questo compito. La volontà di Dio è che tu non superi quel compito. La volontà, se non faccio sesso prima del matrimonio, il mio ragazzo mi lascia. La volontà di Dio, aiutatemi, è che il tuo ragazzo ti lascia. Vedete la logica che io sto... Perché è facile dire, sì, no, no, non voglio violare il Signore, però a volte non siamo disposti a pagare il prezzo che ci può essere nel fare la volontà di Dio esattamente come ci viene presentata nella sua parola. Se non mi metto insieme ad un ragazzo non credente, rimarrò single. La volontà di Dio è che, tutti i ragazzi single lo dissero, la volontà di Dio è che io rimanga single. E che male c'è? Sto facendo la volontà di Dio. Ma Dio non vorrà mai che io rimango single. E ci perdiamo e ci disorientiamo. No, il Signore non vuole il mio male. Lui vuole la mia felicità. Lui vuole il mio lieto fine. Quindi non può essere, ci deve essere un'altra componente. Il verso della Bibbia sì dice non mettetevi con i non credenti. Però forse c'è un'interpretazione che possiamo dare a questo verso. Forse il Signore non esattamente vuole dire questa cosa. Lui comunque vuole convertire il mio ragazzo. C'è un'altra strada che lui può farmi percorrere. Voi non potete capire il rammarico che io ho nelle parole che sto esprimendo in questo momento, perché sto raccontando storie di persone di coetanei che conosco, che hanno scelto di violare qualcosa che è evidente nella parola, per poi pagare le conseguenze, conseguenze amare, pesanti, catastrofiche, che oggi portano loro a dire non sto vivendo felice e contento. Il Signore vuole che tu viva felice e contento, ma non ha mai detto che l'ubbidienza viene senza un sacrificio. L'ubbidienza viene ad un costo, viene ad un prezzo. Pensate che io non mi sia potuto fidanzare prima dei miei 39 anni? o sposare prima dei 39 anni? Ci sono state occasioni, ci sono state tante occasioni, alcune lecite e va bene, quelle erano da considerare e potevo andare per quella strada, ma si sono affacciate delle situazioni che mi hanno messo in seria difficoltà perché il mio cuore mi spingeva da una parte, ma sapevo cosa diceva la parola dall'altra. Allora, puoi sperare, no? Puoi sperare che le cose cambino, puoi sperare che le cose Dio le addrizza, perché poi lo vediamo, Dio è pieno di grazia. Ai nostri errori non è che poi dice, mi sono scocciato di te, cammina per la tua strada, hai fatto l'errore, mo te la vedi tu, è il mese di marzo. No, no, no, che Dio, che siamo a marzo, no? Dio è buono, quanto è buono Dio. E se forse ti senti accusato questa mattina perché pensi, no, che hai fatto degli errori e stai pagando delle conseguenze, beh, una buona notizia per te, Lui è così misericordioso e buono che anche ai nostri errori poi Lui trova una strada per aggiustare il tutto. Io vorrei condannarti, io vorrei dirti ora veditela tu, è il mese di marzo, non sapete quante consulenze pastorali passano nella mia mente sempre questo detto, ora te le vedi tu e il mese di marzo, perché stai pagando le conseguenze delle tue scelte non allineate alla volontà di Dio. Ma poi sento un'altra voce, ed è la grazia di Dio, e Lui vuole sempre riparare, e Lui vuole sempre trovare il modo per farci poi ritrovare la strada. Però vuoi camminare nella via maestra? Segui la volontà di Dio alla lettera. C'è un sacrificio da pagare? Sì, c'è un sacrificio da pagare. Soffrirai? Sì. Rimarrai single? Probabilmente, ma non è la condizione peggiore. Anzi, è molto elevata nella parola di Dio. E quante coppie sono in sofferenza e in dolore, perché a tutti i costi hanno voluto un matrimonio e ora vivono una vita sciagurata perché? Perché non erano disposti a pagare il prezzo di rimanere single. E a volte il Signore ci chiede di rimanere single per un lungo tempo, altre volte per un lungo periodo. Non ho messo queste cose nei miei appunti, quindi torniamo. Non è una predica sull'essere single, però. Seguiamo ancora la logica, se parlo agli altri della mia fede, mi rigetteranno. Qual è la volontà di Dio? Che siamo rigettati, alleluia, che belle notizie che vi sto dando stamattina, che perdi il lavoro, che non superi il compito, che il ragazzo ti lasci, che rimani single, che sarai rigettato, vedi quante belle notizie ti sto dando stamattina, però seguite ancora questa logica, se non mi adeguo a quello che fanno le mie compagnie, le perderò. Qual è la volontà di Dio? Che tu perda quelle compagnie. Sei disposto a perderle? Oh, è stata dura per me perderle. Io le ho perse. E mi sono mancate, ho sofferto. Ma Dio poi ti dà compagnie migliori. Amici per la vita. Persone speciali che ti accompagnano, una famiglia. Vale sempre la pena fare quello che Dio ci chiede di fare. Non potrò andare, se vado al gruppo in casa in questa settimana, diventiamo molto pratici per la nostra chiesa, se vado al gruppo in casa questa settimana, ci saranno i gruppi in casa questa settimana, non potrò andare alla partita a calcetto. Qual è la volontà di Dio per la tua vita? Che tu non vada alla partita a calcetto. Perché se andrai qualcosa di negativo ti potrebbe succedere. Credo che nessuno andrà alla partita di calcetto questa mattina, in questa settimana, grazie. è meraviglioso, però stiamo scherzando, stiamo ridendo a riguardo. Però è così, vedete, in 2 Cronache, capitolo 16, versetto 9, noi leggiamo che Dio vuole benedirci. E Lui ha proprio una strategia, Lui segue dei principi, Lui segue dei valori. E qui noi li vediamo espressi in queste parole. Il Signore percorre con lo sguardo tutta la terra per spiegare la sua forza. Significa per elargire, per liberare la sua forza, la sua potenza, il suo intervento. A favore di chi? A favore di quelli che hanno il cuore integro verso di Lui. Se hai un cuore integro, non diviso, integro, unito, sempre allineato alla sua volontà, quello che succede è che la forza di Dio ti accompagna. E allora Boaz che cosa fa? Andiamola a leggere, ok? Se no non ne usciamo più. Sicuramente non si comporta in maniera illecita, e quello che vedremo è che non si tira indietro davanti a una sfida, la sfida di confronto, il confronto, parleremo di confronto perché è un aspetto anche che leggiamo di Boaz. Quindi andiamo, Ruth capitolo 4 versetto 1, addentriamoci in questa lettura. Boaz salì alla porta della città e là si mise seduto. Ed ecco passare colui che aveva il diritto di riscatto e del quale Boaz aveva parlato. E Boaz gli disse: o tu tal dei tali, l'autore omette il nome, forse proprio per tutelare la reputazione di questa famiglia, perché scegliere di non essere parente di riscatto, come vedremo che sarà la scelta di questo individuo, era qualcosa di disonorevole e quindi non ci viene dato il nome. E quindi Boaz, leggiamo che chiama questo tizio e dice: vieni, siediti qua. Quello si avvicinò e si mise seduto. Boaz allora prese 10 uomini fra gli anziani della città e disse loro: sedetevi qui. E quelli si sedettero. Poi Boaz disse a colui che aveva il diritto di riscatto: Naomi, che è tornata dalle campagne di Moab, mette in vendita la parte di terra che apparteneva a Elimelech, il suo marito, morto, defunto, nostro fratello. Ho creduto giusto informartene e dirti: acquistala in presenza di quanti sono qui seduti e degli anziani del mio popolo. Se vuoi far valere il tuo diritto di riscatto, fallo. Ma se non lo vuoi far valere, dimmelo, perché io lo sappia. Infatti non c'è nessuno all'infuori di te che abbia il diritto di riscatto e dopo di te vengo io. Boaz è lineare, sentite, avete percepito un po' la tensione alla porta. Ora non possiamo entrare in tutti i dettagli della legge di Israele, però si sta attenendo esattamente a quello che la legge dice. E alla porta della città chiama dei testimoni, degli anziani, deve fare questo discorso, deve confrontare questa persona, lo fa senza trascurare nessun dettaglio di questa opportunità che il suo parente ha, che il parente di Naomi ha, di poter prendere in riscatto il tutto. E quindi presenta le cose così come sono, non omette niente, è chiaro, è coraggioso, affronta la situazione. Vedete, Boaz, se da una parte avrebbe potuto agire in una maniera illecita, dall'altra avrebbe potuto seguire il suo cuore, che io credo gli diceva: ma evita tutto questo, tanto lo sai come andrà a finire. Quante volte noi evitiamo il confronto perché sappiamo già che risposta aspettarci dall'altro? E quante volte noi evitiamo il confronto perché c'è troppa tensione? Lo percepite la tensione? Cioè qui si tratta di un accordo di carattere legale, ci sono dei testimoni davanti e il discorso di Boaz è ben preparato, è chiaro, sintetico e si vede che lo fa con coraggio, affrontando una sfida. Ora io voglio dirvi questo, senza addentrarmi in un lungo ragionamento: la parola di Dio ci invita al confronto. La parola di Dio ci invita a non essere evitanti. Chi è la persona evitante? La maggior parte di noi. Ci sono due categorie di persone in questa sala: gli evitanti e gli scontrosi. Allora, gli evitanti sono quelli che evitano il conflitto, cercano, no, non voglio sedermi alla porta della città, no, troppo difficile, lasciamo cuore, non fa niente, perderò questa occasione, non fa niente, non mi va. E poi ci sono gli scontrosi, che dicono: che cosa? Che cosa è successo? Io ora devo... chi è? Vieni qua, che ti devo dire una cosa. Abbiamo questi due opposti, no? C'è chi non si sa esprimere, scontroso, va di emozioni e va per l'affronto, e poi ci sono la maggior parte di noi che vogliono evitare, che vogliono evitare. E non è giusto né l'uno e nell'altro. Gesù è molto chiaro anche in questo, in Matteo 18:15, quando dice: se tuo fratello ha peccato contro di te, vai e convincilo fra te e lui solo. Se ti ascolta, avrai guadagnato il tuo fratello. Vai e convincilo tra te e lui solo. Cerca un dialogo appartato, tranquillo, sereno, dove viene esposto però l'accaduto, in modo tale che ci sia un recupero. Io non lo so se hai un conflitto matrimoniale, non lo so se hai un conflitto al lavoro, non so se hai un conflitto a scuola, non so se hai un conflitto con i vicini di casa, con, non lo so, io però so che viviamo di conflitti costantemente, perché siamo imperfetti, non ci amiamo in maniera perfetta. Quello che ti voglio incoraggiare a fare è a imparare l'arte di vivere il confronto, di chiederti che cosa sto vivendo, che cosa sto provando, in modo tale che tu non ti nascondi e non vivi più in evitamento da ogni cosa, perché la volontà di Dio non si sblocca nella vita di coloro che evitano ogni cosa, ma si sblocca per uomini come Boaz, che hanno il coraggio di affrontare in maniera sana, in maniera gentile, in maniera corretta, in maniera chiara, con una comunicazione che è conciliante, con una comunicazione che non è manipolatoria. Boaz poteva manipolarlo, poteva omettere dei dettagli, invece dice le cose così come sono e presenta la legge di riscatto proprio nelle sue due parti. Infatti leggeremo la seconda parte. La legge di riscatto prevedeva il riscatto delle terre e poi il dare eredità alla vedova con una discendenza che mantenesse il nome del morto, del marito defunto. Quindi Boaz non omette niente, ma qual è la risposta di questo tal dei tali? La risposta di tal di tali è questa: quegli rispose, farò valere il mio diritto. Non c'era il lieto fine. Allora, lo so che la maggior parte di noi ha già letto il libro, sa, anche io vi ho spoilerato, vi ho già detto tutto dall'inizio, però immaginate di non sapere nulla della storia di Ruth, immaginate di aver seguito questo percorso in maniera lineare, senza avere altre chiarezze sul finale. Vi ritrovate qua, e qui è dove si trova Boaz, di fatto, a un ennesimo cambio di programma. Le cose vanno non come ti aspettavi che andassero. Pensate il cuore di Boaz, che era così contento di poter sposare Ruth, che ha preso questa iniziativa, ha preso questo coraggio, ha confrontato la persona, è andato oltre le sue paure, è andato oltre ogni cosa che gli diceva non vale la pena di farlo, e lo fa, si confronta. E ora il risultato qual è? Quello che si aspettava, vedi? Lo sapevo. Farà valere il suo diritto di riscatto. Ma grazie a Dio la storia non finisce così. Siete pronti a leggere il finale con me? Tutto di un fiato, ora andiamo a leggere tutti i versi successivi. Allora Boaz disse: il giorno che acquisterai il campo dalla mano di Naomi, tu lo acquisterai anche da Ruth, la Moabita, moglie del defunto, per far rivivere il nome del defunto nella sua eredità. Colui che aveva il diritto di riscatto rispose: io non posso far valere il mio diritto, perché rovinerei la mia eredità. Subentra tu nel mio diritto di riscatto, poiché io non posso avvalermene. Immaginate Boaz, fuori composto, ha detto tutto. Nella sua mente, festa. Sì, sposerò Ruth. È accaduto, ha detto sì, ha lasciato a me questa possibilità. Ora, tutti questi dettagli noi non li leggiamo nel libro, ma li possiamo immaginare nella mente di Boaz. C'è festa, e non solo nella mente di Boaz, perché quello che accade dopo è una festa straordinaria, è un riscatto descritto nei dettagli. Leggete con me, c'era in Israele, va bene, qui c'è un altro dettaglio, c'è in Israele questa antica usanza per rendere valido un contratto di riscatto o di cessione di proprietà: uno si toglieva la scarpa e la dava all'altro, era il modo di testimoniare in Israele. Così colui che aveva il diritto di riscatto disse a Boaz: acquistala per conto tuo, e si tolse la scarpa. Allora Boaz disse agli anziani e a tutto il popolo: voi siete oggi testimoni che io ho acquistato dalle mani di Naomi tutto quello che apparteneva a Elimelech, a Chilion e a Malon, e che ho pure acquistato Ruth, la Moabita, moglie di Malon, perché sia mia moglie, per far rivivere il nome del defunto nella sua eredità, affinché il nome del defunto non si estingua tra i suoi fratelli alla porta della sua città. Voi ne siete oggi testimoni. E tutto il popolo che si trovava alla porta della città, ma come, non c'erano solo 10 anziani? E le cose dopo 2500 anni non cambiano. Immaginate la folla, curiosa, che cosa sta accadendo? Cioè, Boaz diceva: io volevo un'intima, già era difficile affrontare questo tal dettaglio da solo con 10 testimoni, ma tutta la città, immaginate quando si è dovuto fare il discorso che ha fatto, la città che incuriosiva, veniva: ma che cosa sta succedendo? Vuoi vedere che, vuoi vedere che sta, Ruth? È tornata con Naomi, e il gossip, e le persone che si avvicinano, e la folla che aumenta. E quello che accade qui è meraviglioso, perché c'è scritto che, dove siamo? 11. E tutto il popolo che si trovava alla porta della città e gli anziani risposero: ne siamo testimoni. Ma che, voi che c'entrate? I testimoni erano 10, tutti, ne siamo testimone. Il Signore conceda che la donna che entra in casa tua sia come Rachele e come Lea, le due donne che fondarono la casa di Israele. Spiega la tua forza in Efrata e fatti un nome in Betlemme. Possa la discendenza che il Signore ti darà da questa giovane rendere la tua casa simile alla casa di Perez che Tamar partorì a Giuda. Non abbiamo il tempo di addentrarci, ma qui stanno festeggiando, stanno celebrando, si stanno congratulando. Stanno dicendo: è bellissimo quanto sta accadendo. E poi la storia va avanti. Così Boaz prese Ruth, che divenne sua moglie. Egli entrò da lei e il Signore le diede la grazia di concepire, e quella partorì un figlio. Cioè, autore di Ruth, tu hai dedicato un intero capitolo per una giornata di lavoro di Ruth, un altro intero capitolo per solo una serata, che era quella dove è avvenuto questo scambio romantico, e mi dedichi un verso per dire che si sono sposati, hanno avuto rapporti, è nato un figlio e c'è una progetta in un verso. Io ho il sospetto che chi ha scritto Ruth sia un uomo. Ho questo sospetto, permettetemi, non credo che sia stata una donna a scriverlo, se no questo versetto sarebbe diventato un libro a sé. Però quello che leggiamo è straordinario, perché nasce un figlio, perché c'è una progenie, non si parla più solo di matrimonio, si parla di famiglia. È meraviglioso, perché va avanti e dice: e le donne dicevano a Noemi: benedetto il Signore, il quale non ha permesso che oggi ti mancasse uno con il diritto di riscatto. Il suo nome sia celebrato in Israele, sia celebrato nel suo popolo. Ed è quello che facciamo ancora oggi. Egli consolerà l'anima tua e sarà il sostegno della tua vecchiaia. L'ha partorito tua nuora che ti ama e che vale per te più di 7 figli. E Naomi prese il bambino, se lo strinse al seno e li fece da nutrice. Le vicine gli diedero il nome e dicevano, erano talmente troppo tutti coinvolti che qua addirittura sono le vicine che danno il nome al bambino. È nato un figlio a Naomi, lo chiamarono Obed, egli fu il padre di Isai, padre di Davide. Ecco la posterità di Perez. Perez generò Chesron, Chesron generò Ram, Ram generò Amminadab, Amminadab generò Nason, Nason generò Salmon, Salmon generò Boaz, Boaz generò Obed, Obed generò Isai e Isai generò Davide. E così finisce questo meraviglioso libro dicendo: nasce Davide da questa unione, il re di Israele, dal quale poi discenderà Cristo Gesù, un re che avrà dominio sul popolo per guidarlo in maniera retta, integra, e poi un re ancora migliore, perché il re dei re, il Signore dei signori, Cristo Gesù, verrà fuori da questa discendenza per portare un regno che è aperto ad ogni tribù, ogni nazione, a ogni generazione, a ogni civiltà, ed è il regno eterno di Cristo Gesù, un regno stabile che durerà per l'eternità. E Gesù nasce dalla discendenza di Obed, questo figlio che è il risultato dell'unione di Ruth e di Boaz. Riscatto. Non è meraviglioso? Il riscatto è meraviglioso, perché questo libro parte con una lista di morti. Elimelech, Maclon, Chilion, e finisce con una genealogia e con la nascita di un bambino. Comincia con un lutto, con una disperazione, e finisce con una festa, con una danza, con una celebrazione, con un popolo che benedice Dio. Dio cambia il lutto in danza. Comincia nella miseria, nella povertà più totale e al rischio di vita, e finisce nell'abbondanza, nella ricchezza, nella prosperità. Comincia nella solitudine di 3 vedove, che poi si riducono addirittura a 2 nello stesso capitolo. 2 vedove, povere, sole. E finisce questo libro con un popolo, una famiglia, un'unità, un'appartenenza meravigliosa. Comincia nella maledizione e finisce nella benedizione. Comincia nel buio e finisce nella luce. Questa è la storia del nostro Redentore. In mezzo c'è Boaz e in mezzo alla tua storia, alla mia storia, c'è Cristo Gesù. E tutto ciò che c'è di tenebroso, tutto ciò che c'è di negativo, Dio lo riscatta e ne fa una luce che dura per l'eternità. E allora vale la pena allinearsi concretamente alla volontà di Dio nelle nostre vite, perché Dio vuole sempre il meglio per ciascuno di noi, anche se c'è un prezzo da pagare, anche se l'ubbidienza avviene con sofferenza, anche se ci sono delle cose a cui devi rinunciare. Fallo, perché non sai cosa c'è oltre quella sofferenza. E la sofferenza per ubbidienza produce sempre un esito di benedizione in vittoria e trionfo. Ubbidisci, perché non è una brutta parola, non è una condanna nella tua vita. Ubbidire a Dio è la vera strada per sbloccare le benedizioni che Lui ha in mente per te e per il tuo futuro. Vogliamo alzarci in piedi? Il riscatto è l'atto con cui una persona libera un'altra da una condizione di perdita, di schiavitù, di debito o morte, pagando un prezzo al posto suo. È un intervento volontario, sostitutivo e liberatore. E questo è stato l'intervento di Gesù, un intervento volontario, sostitutivo e liberatorio per le nostre vite. Allora vorrei invitare tutti noi a chiudere i nostri occhi. E se questa mattina non hai ancora, ti rendi conto che non hai ancora affidato completamente la tua vita a Gesù, fallo ora, non c'è scelta migliore che tu possa fare. Chiedi di Gesù: guida la mia vita, guidami nei tuoi sentieri, guidami nell'obbedienza. Finora l'ho sempre scartata, l'ho vista bigotta, ho visto che c'erano rinunce e perdite da tutte le parti, ma non mi sono reso conto che l'obbedienza che mi chiedi è un'obbedienza che poi mi darà frutti meravigliosi, e io voglio i frutti meravigliosi che tu hai per me, non solo in vita eterna, ma anche su in questo soggiorno terreno. Arrendi la tua vita a Gesù, fallo ora. Voglio pregare per chiunque sia qui in questo momento, che seguendomi da casa in un video ti sei imbattuto in questa predica e magari non conosci l'amore di Gesù e ne hai sentito parlare attraverso le mie parole questa mattina. Arrendi il tuo cuore a Lui, fallo ora, fallo con me. Io so che questo può raggiungere, la mia preghiera è che possa raggiungere decine e migliaia di persone che possano arrendere il loro cuore e la loro vita a Gesù. Se questo è quello che desideri, allora ti chiedo, dovunque ti trovi, di alzare le tue mani, un bellissimo segno di arresa, e voglio pregare per te e con te. Alleluia Gesù, grazie per le mani che si alzano in questo luogo, per le mani che si alzano oltre questo luogo, per le vite, i cuori, per queste figlie e figli che tu ami e che vuoi riscattare completamente, alle quali vuoi dare un futuro di vita meraviglioso. Io prego di afferrare queste vite e io ti prego che siano a te dedicate, consacrate sempre, davanti alle belle stagioni, davanti alle brutte stagioni, davanti alle le cose facili, davanti alle sfide, alle cose difficili. Benedico il tuo popolo, benedico questi tuoi figli e so che tu li abbracci, la tua grazia è sufficiente per ristabilire ogni ordine che si è perso e qualsiasi sia il disordine che c'è nelle vite delle persone per le quali io sto pregando in questo momento, io comando l'ordine di Cristo Gesù. Io dico alle potenze del nemico di andar via, non avete il diritto, e chiedo alla potenza dello Spirito Santo, Padre, che possa scendere nelle vite, nei cuori di queste persone, che siano dei riscattati, dei salvati, delle persone rinnovate che camminano nella tua luce e nei tuoi sentieri. Nel nome di Cristo Gesù prego questo. Amen. Alleluia, alleluia. Vogliamo rimanere in preghiera. Vogliamo rimanere in preghiera e affidarci in preghiera gli uni agli altri. Io vorrei pregare per chiunque ha bisogno di preghiera questa mattina. Io vorrei pregare per chi questa mattina vuole decidere di coinvolgere il Signore. E non significa necessariamente che stai disubbidendo, stai andando per strade sbagliate e devi venire avanti per ravvederti. Magari può essere anche vero questo, ma forse semplicemente questa mattina, alla luce di questo messaggio, tu vuoi dire concretamente: Signore, che la mia vita vada nella tua direzione, e vuoi l'aiuto, vuoi il supporto in preghiera di fratelli e sorelle. E allora io voglio invitare avanti tutti i capigruppo che ci sono in sala, a darmi una mano a pregare per le persone che verranno avanti. Vogliamo fare in modo che nessuno che venga avanti rimanga senza una preghiera. E ricevi la preghiera del tuo fratello, della tua sorella, potrai dire quello che vuoi, puoi anche dire: senti, non c'è nessun dettaglio, voglio solo preghiera. E allora ci limiteremo a pregare, il Dio sa ciò di cui tu hai bisogno. Però non perdere questa opportunità, non perderla per vergogna o non perderla per il pensiero che cosa diranno di me, o non perderla per non so chi pregherà per me. Vieni avanti, ricevi questo momento, Dio l'ha stabilito per questo incontro, per farti afferrare nuove benedizioni. E allora vi invito ora a venire avanti.